per non morire dentro senza un perché, forse ancora. Sono passati gli anni però, io sto tremando al pensiero che tu forse ancora. Tutto come prima sarà, e in comprensioni cancellate se vuoi. Questo mondo non ha